speciale Europei 2008. Buongiorno da Dario Ricci. Il pensiero all'Olanda con alle porte la rivincita mondiale con i rivali di sempre, i francesi. Vigilia di speranze e tormenti, quella dell'Italia di Donadoni, attesa domani dalla giornata decisiva del suo europeo. Se la Romania batterà gli olandesi, Azzurri e Galletti faranno le valigie. Ma l'Olanda poi converrà veramente far passare ai quarti i romeni? Sentite cosa ne pensa Buffon. Rispondo con una battuta. Io penso che l'Olanda spera di rincontrare l'Italia o la Francia in semifinale. Beh, visto com'è andata, secondo me ha più paura della Romania. Secondo me farà di tutto per vincere anche con i rumeni. Tra virgolette, mi auguro anch'io di rincontrare l'Olanda, perché poi sai, i 3-0 uno li prende e se li porta a casa, però dentro qualcosa ti rimane, ecco, da pareggiare il conto. L'altro juventino Chiellini intanto spera che non si ripetano gli errori arbitrali delle gare contro olandesi e romeni. Alla fine secondo me più che l'arbitro è stato il guardalinea in quell'occasione, perché è stato il guardalinea a segnalare il fuorigioco di Luca, che è stato l'episodio più clamoroso della partita, insomma quella che ci poteva dare la svolta, però purtroppo è già due partite che capitano episodi del genere, noi bisogna guardare avanti e faremo i conti alla fine. Il romanista De Rossi non nasconde però le tensioni nel gruppo azzurro. Quando i risultati non arrivano escono fuori anche quei piccoli nei che c'erano anche al mondiale, che ci saranno sempre, ma che magari venivano camuffati o nascosti dai risultati positivi. Mi dispiace molto quando non vinco con la Roma in una maniera allucinante, altrettanto con la nazionale. Speriamo che sia finita l'epoca del rosicamento. In casa romena l'interista Chivu, ex Ajax Amsterdam, esclude un accordo con gli olandesi. Ma non penso che Olanda ci farà regali, non penso, perché io ho giocato là, so qual è la cultura di quel paese e so come sono fatti. Ce l'hanno nel DNA, hanno una cultura diversa del calcio e io partite biscottate in Olanda non ho mai giocato. Ieri intanto si è chiuso il gruppo A e non sono mancate le sorprese. La Turchia batte la Repubblica Ceca 3-2 e conquista i quarti di finale. Succede tutto nell'ultimo quarto d'ora. I cechi partono meglio, sono lenti, prevedibili, ma meglio disposti in campo e meno timorosi dei turchi. Vanno in vantaggio con un'inzuccata di Koller alla mezz'ora e raddoppiano nel secondo tempo con Plasil. Poi, quando tutto sembra deciso, sotto l'acqua di Ginevra arrivano le emozioni e 3 gol, uno in fila all'altro. La Turchia di Fatih Terim segna con Arda Turan e poi con l'ottimo Nihat 2 volte. Decisiva una papera del portiere ceco Cech. In 15 minuti, all'arrembaggio, senza troppe speranze, senza schemi, senza sapere bene cosa fare con il pallone tra i piedi, i turchi ribaltano così il risultato e passano il turno. Dovranno ora vedersela con la Croazia. Nell'altra partita della serata a Basilea, la Svizzera già eliminata ha invece salutato l'europeo battendo per 2-0 il Portogallo, già sicuro di passare ai quarti. Decide una doppetta di Yakin. Luca Veronese, GR24, Il Sole 24 Ore, Zurigo. Oggi giornata decisiva nel gruppo B. La Croazia, già sicura del primo posto, affronta la Polonia con un solo punto in classifica ma ancora in corsa per la qualificazione. Come i padroni di casa dell'Austria, appaiati ai polacchi con un punto in classifica, che sempre alle 20:45 affrontano la Germania. Ai tedeschi con 3 punti basta il pari per qualificarsi. Seguiremo anche questa giornata di Euro 2008 con commenti, interviste e collegamenti in diretta. Vi ricordo in particolare A Tempo di Sport speciale europei alle 14 e poi l'appuntamento serale a partire dalle 22:30. Ancora una buona giornata da Dario Ricci.